indossare o là, non importa, perché ho scelto la via, la via migliore. Se ti dispiace, non è colpa mia, libero da ogni schema, uso la mia immaginazione. Se ti dispiace, non è colpa mia, libero da ogni schema, ti aspetto così come sei. Se ti dispiace, non è colpa mia, non importa. Se ti dispiace, non è colpa mia. Se ti dispiace, non è colpa mia. Quando sarò là, una via migliore, non importa, perché ho scelto la via, la via migliore. Quando scelgo la via, la via migliore.